avviene intorno e dentro i nostri corpi è totale. Le nuove tecniche di comunicazione attraverso mondi virtuali propongono nuovi rapporti sociali. Gli sviluppi della biologia e della medicina stanno modificando il nostro rapporto con la riproduzione, la malattia, la morte. I progressi delle protesi cognitive a supporto digitale modificano le nostre capacità intellettuali. Lo spazio del nuovo nomadismo è lo spazio invisibile delle conoscenze, delle potenzialità di pensiero, lo spazio vivente di un'umanità che sta inventando un proprio mondo, uno zapping tra voci, culture, modi di comunicare, una molteplicità di immaginari, slittamenti tra lingue e identità. È la possibilità di una nuova rivoluzione antropologica, è il passaggio a una forma di intelligenza collettiva.